Ciao Romè, buonasera, ben ascoltato. Barra Gri, dici qualcosa. Stiamo andando un ragazzo, perché non vuole rimanere attaccato al trattore? Stai guardando? Guardando un ragazzo, che non vuole rimanere attaccato al trattore, ci vuole staccare, dice che è stanco. Ah, così è. E allora già va bene. Ok, ok. Avanti Sandro, riusciteci sì a attaccare quel coso. Sandro. No, sto provando, provando, ma niente da fare. Allora, c'è un fatto che con accendi e guate della MFM poi diventa rosso. C'è un fatto emergenza, fatto ANL, fatto RB, che mi sembra che sia il bip. Non so, no, i baracchini che ho io sono tutti a posto, quello non lo conosco, niente che plus, non so, se è di ultima generazione, se sono vecchi, non lo saccio, vabbè, facci sapere. Ci vuole vernice qua di questo coso, bisogna che la stanotte lasci la finestra aperta, abbassata, che si sente un rumore della vernice. Ma quello fa, quello si sente, il rumore del trattore sottofondo, al baracchino. È appena salato, ma non è fastidioso, non c'è problema. Secondo solo. Kappa. E beh, Domini, Andate vicino, su. Dove? Domenica Bucca. Prendi Salvatore. Dimmela tutta, dimmela tutta. Ora vuoi sapere il bello? È finito di trabaccare. Ancora no, ancora no. Ah, è positivo, positivo. Vediamo anche poco adesso, oggi è sabato. Oli! Ne avrai per poco di tabaccare, ho ancora per molto ne hai. Qua devo, quello che devo finire l'altro giorno lo sto finendo oggi, perché oggi sta andando la parte di giù e come più butto ci sto bene, là. Qua è una facciata perché l'ho andata a terra giusta. Ah, è KK, andiamo bene, no? Andiamo bene. Domenico! Thank you. scappa. No, va bene, già, va bene. Capito? Ah, capito, sì, dimmi da me. Sono sorvegli. C'è mia figlia, c'è. Vuoi ricordare il nome di mia figlia? Ah, e adesso faccio mettere in lista la mia figlia. No, quello di mia figlia è Ilaria. Ilaria Marti. Ti ho detto, quando ti capita va a vedere il tuo figlio, c'è problema. Anzi, ho visto l'acqua, grazie. Lugavo, mangiamo? Cosa dici? A mangiare? Ah? A mangiare? Ci vuoi mangiare, mangiamo. Dice la moglie, a mangiamo? No, non c'è qui. Anzi, va giù una divanta. Cos'è lì, secondo te? A mangiamo? Siamo di mangiare, siamo, mangiamo neanche stanotte, tanto. Già ho saltato il pranzo. Perciò non mangio neanche stanotte, mi usciva, vabbè, già va bene, bevo qualche chilozzo. Va bene, Valerio Marini, come stai? Ma che è Valerio Marini, salato? Luca! C'è Luca, lo salato. Io bravo, c'è Luca, a me c'è, forse eri tu. Io? No, Mauro è. Mauro è Sabato, già lo conosci. Dai raga, continuate pure, ciao domenica. Fai buon rientro con tutto, ci sentiamo alle prossime. Intanto ti allontani che non ti sento. Con voi ci sentiamo dopo, datemi il tempo di mangiare un boccone e poi sono di nuovo qua fra te. Ehi, anche io carico adesso e ci sentiamo dopo. Ciao domenica, fate la buona. Ciao, bravo, dopo. Ehi, ciao dopo. Ciao Domenico, se mi colpi. Vabbè, ci sentiamo dopo. Allora, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Salvatore, dopo. Ciao, ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao, Salvatore. Se rimani qua, già ci sentiamo dopo. Ciao. Va bene, buona cena. Ciao, padre, tanto, Salvatore. A dopo. A dopo, dopo, ciao. Ciao, guardia, dopo. Ciao. Fatti la ritolina. Ciao Rubi, fate la buona. Dove oggi? Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao Rubi, fate la buona. Parchetto, cambio. Buonasera, ciao, chi sei? Mauro a questa parte, comunque Franchetto è andato a caricare. Ciao Mauro, da Cino sono. È andato a caricare Franchetto, guarda. Yeah. Mauro, ascolta, non è un controllo, fai favore. Passaggio. 1, 2, 3, prova di controllo. Guarda, a me arrivi Santiago 4, radio 3. Radio 3. No, vabbè, no, la radio più alta. Dario, già è buona, doppio bene, dai. Mauro. Ciao, Mauro. Ma poi ci sta male, invece di grattarti le palle. vai a lavorare da capo con Domino, e qui ci vogliono tenere nuove una e l'altra, e quindi le cambiano e poi siamo a posto. Ah, senti. Così ci va a abbassa, già siamo vicini, cazzo, 950, metti a 5 watt, cosa te ne fu? Dobbiamo mettere. Vabbè, 5 watt, tutti tutti. Vabbè, siamo per 45, 940, cosa? Se aumenti a 50 watt non ti sento neanche di quanto sei forte. Siamo attaccati a Antonio, cosa? Metti a 5 watt così non disturbi a lei. Ecco. Avanti, avanti. Buonasera. Buonasera, ciao Paolo, ciao Claudio. Gianni Caprino da questa parte, riprendi Claudio. Ciao Gianni, buonasera. Ma questo microfono non è arrivato ancora. Questo microfono ce lo tiene perché guarda già, mi hanno tirato un po' di bombe, mi ha detto da addirittura 7.004, ho detto spedisco Romano, va bene, allora spediscilo Romano, quindi venerdì dovrebbe arrivare. Di venerdì ce ne sono passati tre. E poi alla fine mi ha detto la verità, che non ce l'aveva, che ha dovuto aspettare che arrivasse, detto, vabbè, non mi serve più perché me l'ho già comprato. Come è arrivato non ho fatto altro che firmare la bolla e rimandargliela dietro, non gli ho ordinato più niente. Thank you. C'è una bella casa, grande, però ha pensato di fare una stanza apposita, anche perché lui ci lavora molto sulla radio, adesso devo portarle una radio mia, ci siamo già sentiti per telefono, e sicuramente se la terrà perché c'è da fare delle parature molto, molto importanti. Io ogni anno a una gliele porto per farmi letterature di media frequenza, di tutto, gli HF, sai, a volte vanno, scivolano un po', oppure hanno sempre qualcosa da rivedere, e lui c'ha l'oscilloscopio e quindi li porto da lui. Però quando sta lì dentro mi viene, madonna, non c'è posto, non c'è posto, qua io, se viene qualcuno posso riceverlo bene, può stare seduto, tranquillo, arieggiato, tutto, capito? Lì è troppo piccolo il posto. Simile praticamente alla Adonis, dai. No, ce ne scambiamo spesso con Carlo di roba, io voglio adesso, infatti siamo usciti per telefono, ho detto Attigosa, Asiagiagosa, non lo so neanche cosa portare, c'ho un sacco di veicolari, io di bibanda, monobanda, che a lui le piacciono, adesso vedo mai di portargliene qualcuno a fare cambio con qualcosa. No, con me no, non c'è nessun problema, mi conosce da ragazzo, quindi ho sempre trattato bene, è una persona molto, molto precisa, quando facciamo gli scambi o quando giriamo soldi, controlliamo bene che tutto sia a posto, perché altrimenti con me non ne fa brutte figure, io neanche con lui, capito? Buonasera signori. Stavo già dicendo che hanno CH. CH23, CH, siamo da Comicone, sono venuto una, l'ha chiesto anche da Mubel, con il Telegram, mi ha fatto vedere tutti i nottoni. Avanti. Signore, buonasera, tutta la rotta, c'è 4-2, la parte fuori del fondo. Ciao Sandro. Ciao Sandro, buonasera, mi ascolti? Papa, che ti ascolto. Già ti ascolto, ti tiro fuori. Poi c'è stato qua da anni, ma qui, insomma, c'è un antenna, no? Un pezzo di filo. Sì, anche io sono un po' di QRM, infatti sto un po' qua, aspettando. Da Bracco. Ok, ho registrato un prezzo. Guarda, QRM quasi 1-2, quasi silenzioso, soltanto che ho donato delle scariche, mi arrivano delle scariche a momenti a Santiago 9. Non lo so, probabilmente pure che siano questioni di tempo, tutto lì. Ok, avanti il prezzo. Qui è Bracco, così a Casassari. No, un controllino volevo, perché diciamo c'aveva un'antenna sul tetto da parecchio che non modulavo naturalmente. E mi ha dato l'impressione, siccome sono saliti a riparare il tetto e mi abbiano rotto i capi. E dimmi con che segnale mi stai copiando. Ok, buonasera Bracco, se non ho copiato bene male. Portare, c'è il Santiago di 5, una radio di 3, proprio, cioè passa con la radio. Dove lo stiamo modulando? Da Sassari naturalmente, c'era lo stadio. Ma di solito da Sassari mi arrivano Santiago 9, Santiago 8, adesso non lo so in che zona ti trovi e che antenna stai usando. Sono, no, come antenne è ottima, dovrebbe essere la manta, ma ripeto, se non mi hanno rotto il capo, non mi hanno combinato qualcosa sul tetto, perché lo stavano riparando, no? E quindi, diciamo, può darsi che ci sia qualche difetto, eh. Quindi che segnale mi hai dato? Adesso me, che mi è sfuggito di me. Ok. Non lo so, verifica tutto, verifica stazionaria, se c'è il capo che è danneggiato, prova a trovare la stazionaria, te ne accorgi subito, diciamo, perché per sasso ritrovano un'altra, ma allora qua mi stava arrivando lo stesso segnale di 4-2 che ha la Muros, quindi adesso non lo so le tue condizioni quali siano. Ok, Claudio. Sì, ciao, chi sei, Giovanni? Sì, come mi stai copiando? Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato. Qua noi siamo vicini, io sono a Carbonazzi, sono molto distante da Roberto, 9+40 è Radio 5, perfetta qua, c'è anche Antonello Rescio, vediamo come ti ascolta lui, avanti Antonello. Fantastaggio. OK, ripeto, qui è la stazione Bracco, zona diciamo vicina, ecco, in poche parole. No, stavo facendo diciamo la prova perché era da parecchio, non modulavo. E siccome mi stanno riparando il tetto, c'è già stanno riparando il tetto veramente, e quindi potrebbero aver combinato qualche pasticcio, perché diciamo sulla 27 sto uscendo, però ho provato a uscire diciamo con l'altro apparecchio HF diciamo, e lì non ricevo né trasmetto, quindi c'è qualche pasticcio. Bene, Nera, ti rilancio il micro, dammi segnali. E una perfetta, sei qua a bomba, io sono qua in Carbonazzi, via Valsabbasso, quindi vabbè, io sono sempre un'antenna che ho costruito io, quindi no, diciamo il segnale mio è quello che è, però va bene, la verità va bene, quindi a distanza dovete fare i controlli, perché si vede il guadagno dell'antenna là, siamo vicini più che altro. Vabbè, ok, vi rilascio il micro perché fa il QRT. Vi ringrazio dei controlli, vabbè, adesso guardo un po' sia alle apparecchie appunto che alle antenne per riordinare un po' tutto, per riordinare un po' tutto. Bene, Meda, vi ringrazio per avermi fatto entrare, faccio QRT e arrivederci, ciao ciao. Ma le prossime, tante belle cose, quando voi siamo qua, se ti serve qualche controllo non c'è problema. Avanti Capri 2. Yeah. non facciamo il passino e non fai la L. Io sto pensando che sia qualche difetto. Sì, forse ho capito. Non è che è tanto grande, così è fine, più che alta, non è che sia molto molto, molto alta, giusto? Non ti ho capito. Guarda, come il baracchino è fine di altezza, non è che sia molto, molto alto, giusto? Allora, guarda, di spesso avrà, neanche 10 centimetri. Di lunghezza avrà 40 centimetri, di larghezza avrà 30 centimetri. No, è funzionissimo, è una capoletta. È piccolino, Ho capito, Ascolta, c'è MFM, giusto, mi hai detto. E quindi se lo metti da M va bene, se vai da FM non va per niente, giusto? No, insomma, che come lo accendo? C'è il tasto, soprattutto c'è un LED, spia rossa. Infatti l'ho provato qua, vado a sentire, però è su FM. Bello schiacciare il tasto per metterlo in M, ma niente, rimane fisso. Stavo pensando che non ci sia qualche opzione, perché quando lo accendi appare una spia come il C. Ecco, stai travolto. Appare una spia intelligente e CO. Ma te lo sto dicendo io. Io facevo un baracchino di quelli così, tipo MFM, ma a un certo punto mi metto la cosa. Non so cosa dire, devo vederlo, la verità devo vederlo, perché se no così sono due tiri, non ti posso dire niente. Guardate, magari che basta qualche fesseria, un contatto, quello che è, si sistema proprio così su due piedi, non lo ricordo più la verità. Capito. No, perché ho provato sullo strumento esce. Cioè esce appena i watt, sono 5 watt e compagnia bella. E vabbè, no, me l'ha dato un amico, un camionista che mi ha detto c'è prova, c'ho lì buttato, non so se va bene. Siccome lui non c'ha l'antenna e nulla, glielo stavo provando. Vabbè, fa la cosa allora, dalla Claudio, poi Claudio vediamo passa a me, non c'è problema. E ti dire qualcosa. Vabbè, ti faccio la limite un preventivo se c'è qualcosa che non c'è, ma magari sulla pezzeria roba di CRG, magari non ti costa niente. Non se hai dei problemi per esempio per cambiare qualche pulsante, cosa del genere. Però guarda, su due piedi non ti posso dire niente, la verità, perché non l'ho visto, non mi sembra che conoscono quel tipo lì. Io pensavo che fosse nata parecchio, tipo Inter che diceva il display, faceva MFM, piccolino, e c'era la 75, invece no. Poi dalla cloud e poi ci vediamo, là, non c'è problema per quello. Vediamo, no, è nuovo, l'ha comprato un paio di mesi, ce l'aveva ributtato, ce l'aveva a piazzare, poi invece non ha piazzato niente. Va bene, ok, chi ce l'ha vedato non mi ricordo più, Claudio. Poi se c'è di due mesi, allora il problema è che è ancora in garanzia, quindi devono passare 6 mesi. Se è passato i 6 mesi io posso anche toccarlo, se è prima di 6 mesi mi spiego per forza dove l'hai ordinato, hai capito? Il discorso è quello lì, perché così è la garanzia, hai capito? No, ma in effetti è questo, dovrebbe essere ancora in garanzia, perché il nuovo nuovo me l'ha trovato fatto, ci avrà, se no, neanche 2 mesi, quindi dovrebbe essere di garanzia. Perché se non ricordo male lui la garanzia deve essere 10, ma non so. Vabbè, comunque sia, se 2 mesi in garanzia, se 6 mesi no, il problema è quello, quindi dovete recuperare il tipo che era venduto, glielo porto e dice guarda l'apparecchio non va bene, non mi funziona bene, c'è questo problema qua, lo porterà alla persona che lo ripara, non so chi sia, Sassari al limite magari sarà fuori quello che è. Vabbè, ti devo fare la riparazione, ma io penso che non te la faccio riparazione perché ti cambia direttamente l'apparecchio, quindi se la fai Giorgio Grassi te lo direttamente nuovo, se la viene in Napoli, qualunque lo spesce, lo spesce fuori, che poi magari con lui non è che lo spesce fuori, ma si va per la mondezza, perché le cose sono fatte così, comunque sia, e portalo da quello che te l'ha venduto, lo porti lì, poi lui ti dirà chi è che lo ripara a Sassari, lo porti lì e dici guarda, l'apparecchio in garanzia, l'ho usato neanche un mese e mezzo fa la Britannici e ho fatto questo difetto, capito? E lui o te lo ripara, poi te lo deve cambiare per forza, a meno che ci sono le prassi del città mercato per dire che quando vai lì togli l'apparecchio, devi comprarlo e per dire oggi è uno e dobbiamo passare 7 giorni, dopo 7 giorni il biglietto lo cambia, capito? Però non si conosce così, se no ci passano mesi per poterlo un po' di laboratorio, poi passi per il tempo 6 mesi per dire 4, 3 mesi, quello che è, comunque te lo cambia lo stesso. Però intanto devi stare sempre a aspettare. Ok, grazie, ci vediamo un po' domani, io no. Mi spiego un attimino il problema, se più lo posso la domanda a Francia, e vedrà un po' lui. Va bene, ok, se lo prendi qua. Sì. Sì, ok. Va bene. Le macchine è sempre meglio portarle dove si comprano, intanto poi è un casino. Va bene, avanti Gianni. Un attimo. Ti volevo chiedere cos'è quel pulsantino che sta sotto? Per le bande laterali. No, lascialo così per la M. MFM va bene così. Capito? Una media tra la M e FM più o meno, però già esci bene, non è che sia forte, un 2 settore va bene, e un quanto posso dire, non 4, un modulatore 3, cioè 4, facciamo 5 soffocata più o meno 4 o 3, una cosa del genere, è come se fossi, posso dire, così più o meno, che sei in modulazione. Tanto lì, e poi te l'ho chiesto. Non stai scendo veramente bene, dovresti uscire molto meglio. Secondo me, poi non so, dipende dall'apparecchio, io non ho mai usato quel tipo di apparecchio là. Sono, vabbè, modificati, riescono a dare quello che danno, ma quello essendo normale va più che bene, va benissimo. Se solleva ancora sotto il, c'è un trimerino sotto l'SM20, però se lo sposti ancora magari vai a distorcere, lascialo così che va bene, non c'è problema. Già la verità, sono offesa. Io ti sento per colpi. Se tu vedi, ah, fatetelo. No, no, no, no. È vero, ma è un mettiamo inferiore alla mia, sicuramente anche quello. Però è già già, come ho detto, lo no? È come avere, per esempio, una capsula del telefono, c'è presa la capsula del telefono, che tu parli, dice la voce fine, fine, fine, è la stessa cosa. Poi vi voglio spiegare a me. non ti sento neanche io. Non c'è scheda in FM con la radio. Ai ai ai ai. E avrei telefonato comunque al signor Andrea, ti avrei detto complimenti, mi hai mandato una radio completa di tutto, non c'ha niente, capito? Non c'ha niente. La M che è in dotazione alla radio, le schede aggiuntive, FM, tutti i filtri, zero completamente. Complimenti. Gli avrei telefonato e gli avrei detto. L'SMI deve andare perché è in dotazione, ma non ti ha messo la scheda FM e sicuramente non c'hai manco i filtri a 1008 e a 2008, capito? Quindi avrei telefonato e avrei detto complimenti Andrea, mi ha mandato una radio completissima, non c'è scheda FM, non c'è filtri, non c'è niente, proprio come Dio ha fatto quella radio, manco un'opzione ti ha messo dentro, cazzo, con la mano non poteva mettere la scheda FM. La tagliatura ha preso questo. Infatti bisogna la cosa toccarla con mano, trovarla e fare di quello, questa cosa come sapevo. Ma già te dico io però che è così. Ne ho quattro io Icom Gianni, e tutte e quattro quando li ho ordinati ho detto mettetemi tutti gli opzionali, capito? E infatti è così. Sia su 706, su tutti quelli che ho della Icom, per non stare a elencarli, sono tutti con gli opzionali, tutti, quindi c'è la scheda FM, c'è tutto, vabbè, comunque in FM non è che ci andiamo spesso, no? Se dovessimo andare in FM vuol dire cambi radio, cosa vuoi ti dica, però gli avrei telefonato Gianni, perché non è che si manda una cosa così a scatola chiusa. Io ti ho chiesto una radio e tu mi dovevi dire guarda che quella radio non c'ha l'FM, guarda che quella radio le manca questo, e poi sono io a dirti mettimela oppure no. Scusa. Oh Claudio. Che? Sono io. Io chi? Sandro, come sei spostato? Io sono spostato, non sei tu che sei spostato. Sì, ma se vado sullo 10 non ti ascolto per niente, mi sono spostato io per sentirti più chiaro, bro. Ma che cosa? Sei vedendo una tambulana, cosa stai usando? FM. Se te ne vai in FM, Sandro, come fai a... Cosa avete mangiato stanotte? Cosa hai mangiato fare con i calamari piccanti? Sì, sì, ok, grazie, grazie. Va bene, mi approfitto per salutarvi. Dai, tante cose belle alle prossime. Ma sei in FM, Sandro? Sì, sono i USB. Ma lo fate riuscendo bene adesso si toccato distorto, ma lo sei toccato, ma ti sei messo a toccare qualcosa per fare prove con Gianni? A provarsi prova la zinca si prova noi. Cosa stai facendo allora? Niente, non ho toccato niente, sono passato un attimino poco fa in FM per vedere se ti sentivo, ma non ti sentivo chiaro, ti sentivo distorto. Non ho parlato in FM, io non ho parlato Sandro in FM, lo sto dicendo per quello. Io non ho parlato in FM, Antonello che si è spostato in FM con Gianni, però io non mi sono spostato da qua dal canale 10. Io provo a parlare la M, dai, prova un pochettino, se è cosa sporco. Prova anche a qualche momento, eh. Prova Sandro, a vedere se lo sento. Gianni, prova cosa mi senti. ascolti a me FM. Carlo. Mi ascoltate a me FM? Sì, ciao FM, solo che tu va in tilt, il bello è quello. No, ma a me mi ascoltate in FM, Sandro, mi ascolti in FM a me. Tu sei in FM, non fate usare in FM, vai in FM, non c'è problema. Aspetta. Sì, mi ascoltate in FM. Non fate nessun elettro, perso. Ne ho 50 io con gli HF e non puoi pretendere di usare un HF con 10 watt. Io per i baracchini ho 20 watt, 20 ampere, per i baracchini, per gli HF ci vuole almeno 50 watt, perché quando spingi in banda laterale o in FM, è chiaro che ci vuole alimentatore grosso. Ha ragione Antonello, non mettere batterie, non mettere niente, fare una spesa unica e via. Prendi un bel alimentatore, non prendi l'alimentatore della ZG che fanno schifo per risparmiare 10 lire, prendi l'alimentatore della Proxel, della Daiwa, della Diamond, della Airbex, ce ne sono tanti alimentatori. Non prendi l'alimentatore della ZG perché non servono a niente. 25 ampere e poi ne danno 20, non servono proprio a niente. Io me l'ho regalato a Luca, c'era Luca sul 140, e infatti ogni tanto si lamenta perché o sale, scende, è un casino, però non ne avevo altri disponibili, ho fatto quello lì da 25 ampere per il 140. Va bene, d'accordo, avanti Gianni. Meno pasta asciutta, meno salsiccia, e almeno si piglia un bel alimentatore per un paio di mesi, per un mese. La spesa è buona, solo per uscire così la verità no, rischi di crepati l'apparecchio. Sì, sì, a me, la prima volta che sono uscito con un baracchino, la verità, perché è vero, con Kingwood, stavo usando un alimentatore di quello della Inca, che Claudio se lo ricorda, come se voleva valorizzare, è andato avanti la fancuna, al piatto e avuto per il 1960, prendiamo il mio alimentatore di pubblicità per Claudio, ci vuole veramente bene, come il microfono normale, non va anche bene. Poi mi sono comprato un infradelta e io l'ho a posto, il costo è quello, ci vuole un buon alimentatore, si riuscirebbe bene, se no in quelle condizioni si bruciare di tutto. Comunque, io ho un bel alimentatore, come si vede, in modo che esce bene. Poi si è a posto il limite per la questione di amplificazione, te la puoi anche regolare, fare qualche cosa, cosa vuol dire, una modifica, cosa ne so. Perché ci hanno dato un bel fine, proprio fine. E cioè per la M non va, per la FM va benissimo la verità, perché esce veramente bene la FM. Poi la M non mi piace. Cos'è quello? Poli troppo alti. Fini proprio. Ma è bene, lascia stare così, cosa? Va benissimo Gianni, non ti preoccupare, va benissimo, alla grande. Hai tonalità molto medio-alte, ma non fa niente. SM20 è così. Col 440 e col 430 è ancora più alta la modulazione. C'è tonalità molto alta, infatti non lo uso mai. Lo uso solo in FM, io ho capito l'SM20. In FM col 706 della Icom. Perché va bene in FM. Ma in AM è a tonalità troppo alta. Bravo signori, sono le 11, io vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao Antonello, ciao Sandro, se ancora l'ascolto, chiunque fosse l'ascolto, la più cordiale buonasera a tutti e buonanotte. Ciao Gianni, saluto nel Correa 73, grazie per il tuo intervento, lascia tutto così, poi magari con calma, se entri presto vediamo di fare qualche regolazione, aprendo leggermente sotto, regolando magari un pochino più il mic gain, senza fretta, piano piano vediamo di fare qualche regolazione, se riusciamo a dare la tonalità un pochino con i medio alti, ma sarà molto difficile, comunque per il momento lascialo così che va benissimo. Ciao a tutti di nuovo, buonanotte, chiudo perché altrimenti domani ci vuole la moto zappa a farmi sollevare la testa dal cuscino. A te Gianni, ascolto finale e poi chiudo. Buonanotte a tutti, grazie per essere entrati. Ok, grazie Claudio. Allora, ti auguro un buon pomeriggio, buonanotte, un buon tutto per domani. Senz'altro domani sera, complesso, diciamo, presto meno e dopo le 5, domani come venerdì 15, per ore 5 quando mi sei a casa, sarò possiamo anche provare a fare le prove. Io me ne farò in quel mese, me ne farò di più, lasciarlo comunque, saluto anche a lui, comunque lo invitando, anche a te Antonio, perché anche io domani devo alzare il treno, devo venire anche a Sassari a cambiare le gomme a uno scuola bus, e quindi da fare le ho anche dopo che finisco il servizio a scuola. Di nuovo vi saluto tutti, vi abbraccio e a domani, prendi Antonio. Ciao, ciao a tutti, buonanotte, Antonio, che sei con la City. Ok, ciao, grazie. Ciao, ciao, buonanotte, Gianni. Tutti spaventi.